festose e belle, festose e belle. Ti comprerò un festoso e bel dolce tutto un zero, ti comprerò. No, con fronde e fiori. Cento dozzine festose e belle, festose e belle. Ti comprerò un po' con fronde e fiori, cento dozzine. Festoso e ben, con fronde e fiori c'è tua donzella. Ti incontrerò, anno con fronde e fiori, con fronde e fiori. Con suoni canti, neri e brillanti, a te verranno cento pastori. Suoni e canti, a te briganti, a te verranno cento pastori. Cento donzelle festose, festoso e ben, con dei fiori c'è tua donzella.